Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Amici di Blu Radio Veneto, benvenuti all'ascolto della nostra programmazione serale. Questa è Blu Time Live, sono le 21 e 2 minuti primi di oggi, martedì 12 marzo del 2013. Una buona serata a tutti, vi arriva da Flavio Bilato e da chi conduce insieme a me il programma, ovvero Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, in questa serata un grande onore per noi vedere arrivare della gente che ci vuole bene da Roma per farci ascoltare le loro belle canzoni, e quindi in una umile radio che ospita sempre grandi protagonisti comunque di quella che la nostra bella musica italiana, anche se in questa serata la sentiremo sia diciamo italiana che inglese, in quanto è cantata in inglese. E allora, perché non cominciare dando subito il benvenuto ai Soul Revolution? Eccoli qua, buonasera ragazzi. Buonasera. Allora salutiamo in ordine Deborah, Fabrizio, Silvano e Daniele. Insieme formano i Soul Revolution, e un album che ci vengono a presentare in questa serata live si intitola People, poi capiremo anche il perché. Innanzitutto, fatto buon viaggio? Sì, grazie. Abbiamo incontrato un pochino di grandine anche. In Umbria, però insomma ce la siamo cavata. Vabbè, comunque l'avete lasciata lì, ecco, sì, noi sì. Non dobbiamo temere nulla, noi siamo dal Veneto, però ricordiamoci di salutare non solamente chi ci ascolta nelle nostre frequenze tradizionali, quindi via FM, ma salutiamo sin da principio chi ha la bontà di ascoltarci anche via streaming audio, quindi buona serata al pubblico globale di Blu Radio Veneto. Salutiamo anche il quinto elemento, in questo caso dei Soul Revolution, già in principio, perché lì parcheggiato in parte, magari lo intervisteremo più tardi, c'è Nocciolina, cercheremo di tradurre dall'italiano al cagnolese in questo caso. Benissimo, allora una dolcissima cagnolina vi siete portati appresso, la sì. Vostra mascotte, quella, sì. L'animaletto che vi porta fortuna. Sì, poi lei è nata e cresciuta con la musica, sembra che parlo di una figlia, però in realtà sì, è una sorta di figlia pelosa, chiamiamola così. Diciamo così, solo che non si fa la barba al mattino, no. Ecco l'unica differenza. Invece, dunque, so che siete voi due, Fabrizio e Deborah, proprietari, diciamo, di Nocciolina, invece sì. Fabrizio, la differenza, si fa la barba, invece, sì. No? Quindi, ok, allora, Soul Revolution, cerchiamo di capire subito, in principio, il perché del vostro nome. Subito qualcuno che ne sa di musica verrebbe in mente subito il lontano 1971 giù di là, dove c'era un gruppo non di quelli famosi di più, si chiamano Wailer, sono ancora in attività, sembra, ecco, senza bombarli, poverino. Beh, è andato comunque, un po' di tempo, sì, appunto. Ecco, con i Wailers a dare appunto il nome a un disco, proprio Soul Revolution. È proprio da questo che prendete il nome voi? In realtà no, è ecco. Una strana coincidenza, anche se amiamo ovviamente anche la loro musica, certo. Però in realtà era nata l'esigenza di creare della musica, perché per noi la musica è un po' una rivoluzione nell'anima, quindi volevamo una musica che riflettesse proprio l'animo delle persone, perché poi alla fine comunque tramite questo linguaggio si riesce a parlare al cuore delle persone, quindi era bella l'idea di immaginarla così la nostra musica. Quindi una musica per l'anima. Per l'anima, esatto. Quello è un po' il nostro desiderio, poi speriamo insomma di riuscire nel nostro intento. Sì, un CD formato da 9 tracce, tutte sì. Ascoltabilissime, tutte in uno splendido effetto acustico che vedremo di ripercorrere anche in questa serata, sì. Perché sono delle magnifiche ballate molto molto tranquille, ma all'interno della loro tranquillità ci sono delle frasi forti anche su cui pensare, perché si parla di people, quindi si parla di gente che si incontra per strada, anzi loro stessi, questi che formano il vostro concept album People, si incontrano, si scontrano per strada. Sì, noi avevamo l'esigenza di raccontare un po' l'umanità, quindi abbiamo provato a immaginare 9 persone così a caso che portassero ognuno con sé un bagaglio di esperienze diverse e tramite loro raccontare un pochino anche la storia dell'umanità, quindi tutte le situazioni che le persone possono appunto incontrare nella propria vita. E quindi parliamo di personaggi molto diversi tra di loro, ognuno ha qualcosa che manca all'altro e insomma tramite le loro storie raccontiamo anche un pochino di noi stessi. Benissimo, allora ci ascoltiamo subito la prima storia con Soul Revolution dall'album People, questa è Simone. Human nature, it is Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. 12 minuti dopo le 21, sempre con Blue Time Live, sempre con Flavio Maurizio, insieme per il martedì sera di musica acustica. Abbiamo aperto bene ascoltando Solo Revolution, il nome di questo gruppo che ci è venuto a trovare da Roma. Sono qui con noi con il nuovo lavoro che si intitola People, e abbiamo già incontrato quindi la prima persona che Solo Revolution ci hanno raccontato. Si chiama Simone e viene descritta come The Dreamer, nel senso che è una ragazza che cammina per strada, vede, osserva la gente camminare e già comincia a incontrare altre persone che fanno parte di questo concept album, che fanno parte della strada, che fanno parte di People. Deborah. Sì, assolutamente, è una sognatrice. Apriamo l'album con un personaggio positivo, una donna che vuole aiutare le persone che le stanno attorno, e ci serve un pochino anche come espediente per raccontare quello che lei riesce a vedere, ovvero gli altri personaggi che poi andremo ad ascoltare nell'album. E avete target musicale immediato, il primo pezzo, target acustico, più totale, è una canzone pop, tra virgolette, sì. un pop allargato, potremmo dire, tra ballad e pop, siete sì. Io l'ho capita così, siete d'accordo su questa definizione? Allora, noi abbiamo scelto la chiave acustica, nel senso proprio la scelta acustica per noi è un modo per essere il più liberi possibili di viaggiare attraverso diverse influenze musicali, quindi ascolterete nel nostro album un po' di tango, un po' di pop, un po' di rock, anche il blues, proprio perché ognuno di noi poi ha anche delle radici musicali differenti, e quindi abbiamo cercato di unire queste passioni e di raccontare, perché no, ogni personaggio con un mood diverso, quindi dandogli un aspetto particolare. Benissimo, anche se il fine del blues c'è anche in questo pezzo, secondo me, sì. Cantavico, c'è quel piccolo sottile linea del blues che poi si sviluppa, però secondo me c'è già all'inizio, nei primi secondi, a mio parere. Anche è da dire che Deborah, nel mondo dell'artista, nel mondo musicale, è conosciuta come DB, sì. Perché queste sono le tue iniziali all'inglese, perché tu sei un'anglofona. Sì, sono metà inglese e metà italiana. Ecco, metà inglese, esatto. Metà italiana. Di quindi mamma londinese. Di mamma londinese e di papà romano. No, in realtà lui è di Vercelli. No, è di Vercelli, quindi però, la papà piemontese. Stato sì. Romano. Ecco, benissimo. E quindi da questo miscuglio, sì. Diciamo così, sei arrivata tu, naturalmente, con questa ottima pronuncia inglese, quindi sì. grazie alla mamma. No, infatti, grazie mamma. Ecco, volevo sapere, i testi che voi naturalmente cantate in inglese per un pubblico italiano che non sempre sta attento ai testi, sì. Li pensate prima in italiano o direttamente di getto in inglese? Allora, l'idea delle storie era venuta prima a Fabrizio, quindi si era un po', cioè abbiamo un pochino riflettuto sulle diverse tipologie di storie e di personaggi, e dopo in realtà i testi sono esplosi tutti nell'arco di 2 settimane, però io devo essere onesta, quando scrivo in inglese scrivo direttamente in inglese, non penso alla traduzione italiana, anche se noi poi a Roma e comunque anche un po' in giro per l'Italia portiamo degli spettacoli nei quali cerchiamo ovviamente di far capire i testi con degli espedienti che possono essere o una voce narrante oppure addirittura l'ausilio di attori, quindi a volte uniamo sia la musica ad altre forme artistiche proprio per far entrare le persone nelle storie che cerchiamo di raccontare. Poi vedremo di approfondire anche questo argomento, perché merita di essere presentato in una nicchia il vostro tipo di spettacolo. E allora, visto che abbiamo i Soul Revolution che sono venuti a trovarci non solamente con le mani in mano, come si dice in inglese, shaking hands, no? Forse no, si può dire così, no? Comunque vabbè, è un gioco che ci siamo inventati. Allora direi, ecco, sentiamo già in sottofondo gli strumenti musicali, quindi con Fabrizio alla chitarra, poi ancora Silvano al basso acustico e Daniele con il suo cajon. sentiremo tutti e quattro in questa versione acustica cantandoci un altro personaggio. Sì. Questa volta c'è Frank, il fratello di Simone, un tassista che ha una visione totalmente differente dalla sorella, anzi vorrebbe quasi ammonirla a stare attenta perché ci sono tanti pericoli per strada. Lui vede nel suo tassì persone di ogni genere, quindi in un certo senso vorrebbe un attimo appunto ammonire la sorella e proteggerla dal male. Ci ascoltiamo, Frank. Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. abbiamo ascoltato questo bel pezzo dei Soul Revolution, si intitola Frank the Taxi Driver, e abbiamo scoperto dalla voce di Deborah che Frank è il fratello di Simone, il personaggio conosciuto prima, che pensa di conoscere il mondo solo perché ha girato tutta la città in taxi e quindi dà molti consigli a Simone, in quanto la ritiene molto ancora inesperta nel mondo, e gli dice: attenzione Simone, perché la vita assolutamente non è semplice, cercheranno di farti di tutto tranne che farti del bene. Quindi siamo proprio in delle atmosfere quasi Bronx, oserei dire. Quindi dove Simone deve stare molto attenta e guardarsi alle spalle, proprio in questa lunga strada dove percorre questo album che si intitola The People. Allora, voi adesso l'avete suonata in quattro, però sappiamo che nelle versioni dal vivo siete un po' di più. In sei, sì, assolutamente, anzi cogliamo l'occasione per salutare Lorenza Paruolo, che è la nostra corista, e Daniele Rotondo, virtuoso chitarrista acustico. Benissimo, questa versione avete fatto chiaramente versione acustica. Posso dire che Silvano con il basso, su una recensione parlano di ritmo latino, qualcosina c'è, si sviluppa, chiaramente in versione acustica è un po' più ridotto, però il ritmo latino col tuo basso sviluppava. Poi c'era Fabrizio che colorava con la appeggiando la chitarra, poi c'era la voce di Deborah che andava su, e anche il nostro batterista dobbiamo citare, che ha dato il suo contributo non da poco al pezzo, all'insieme della costruzione del pezzo. Anzi, vorrei dire che Daniele è una nostra new entry, noi siamo felicissimi di averlo, perché veramente ci ha portato qualcosa di speciale, senza nulla togliere ad Andrea, che era il nostro vecchio cavonista, esatto. Però insomma, ecco, siamo ben felici di provare con lui questa nuova esperienza. Poi giovane lui, eh? Sì, molto giovane, molto, ma siamo giovane. Tutti giovani. Indubbiamente siete tutti giovani. Assolutamente sì. Allora, giovanissimi, vogliamo citare un po' di storia, seppur breve, dei Soul Revolution, appunto, giovanissimi. Sì. Allora, tutto è partito quando Deborah Baratelli, DB, incontra il chitarrista Fabrizio Scafetti. Allora, era il 2006 e quindi avete cominciato a fare della musica insieme, che però all'inizio non era solo la vostra musica, era anche musica di altri, quindi avete fatto i coveristi, sì, così per aprirvi diciamo le porte nel fare la musica, anche perché nessun locale, si sa, in Italia apprezza e conosce e percepisce il messaggio della musica propria. Vorremmo sentire da Fabrizio. Sì, da Fabrizio, un commento, un commento relativo a questo. È vero che succede così in Italia? Sì, diciamo c'è molto spazio per le cover, perché ovviamente il pubblico comunque sia richiede appunto diciamo delle cover band, poco spazio per i gruppi emergenti o comunque sia insomma che fanno musica inedita, e niente, quindi un monito a tutti i gestori dei locali per far emergere un po' di cultura e di diciamo originalità all'interno dell'Italia, insomma. E perché Deborah, che è anche inglese, come mai in Inghilterra o nei paesi stranieri questo non succede, anzi succede il contrario? Allora, in realtà sì, indubbiamente l'atmosfera è un pochino differente all'estero. Credo che sia, come dice Fabrizio, anche un'abitudine, nel senso, ovviamente non è una critica che facciamo alle persone che ascoltano le cover, ci mancherebbe, l'abbiamo fatta anche noi, quindi non disdegniamo questa cosa. Semplicemente magari uno è più abituato ad andare a sentire qualcosa che riconosce già come familiare, mentre in realtà ci sono tantissime realtà emergenti, a parte noi ovviamente, tantissimi altri romani, veneti, insomma di tutti i tipi, che portano secondo me un bagaglio di culturale, artistico fantastico, e si scoprono purtroppo in situazioni così quasi limitrofe, insomma rilegate in piccole situazioni. Quello che cerchiamo di fare noi ovviamente è farci sempre più sentire, proprio per combattere questa difficoltà, quindi speriamo di riuscirci. Bene, già vi ci state riuscendo, sì. Ecco. Allora ricordiamo i nostri ascoltatori che stiamo ascoltando piacevolmente insieme le tracce da CD e tracce acustiche proprio suonate qui in diretta nei nostri studi di Blu Radio Veneto. Siamo con i Soul Revolution, il loro album si intitola People, poi cercheremo anche di capire come fare per entrare in possesso di questo disco, ma intanto andiamo a sentirci un'altra traccia. Questa volta incontriamo due persone in una canzone, quindi due persone al prezzo di una. Emily and Albert è una vecchia coppia di barboni, ascoltiamola. Live. questa bella canzone un po' triste ma molto forte arriva con i suoi remember ripetuti più volte, perché chi li ripete è Emily e Albert, è una coppia di barboni che vivono anche loro su questa grande strada di The People, loro che stanno vivendo i loro ricordi, perché sono l'unico vero patrimonio che hanno. Assolutamente, poi stavamo dicendo fuori onda che abbiamo scritto questo brano proprio ispirato a una storia vera, perché io e Fabrizio eravamo in vacanza a Budapest e camminando sotto i portici famosi, insomma, di questa cittadina abbiamo visto proprio una coppia di senza tetto che si preparava ad andare a dormire, e in quella scena ci sembrava di essere noi gli esterni, un po', diciamo, le persone. Volevi aggiungere? Sì, scusate, aggiungo una cosa, perché di solito il barbone viene visto sempre come persona singola, sì. Cioè uno, è difficile che uno trovi una coppia di barboni che stanno ancora insieme nella disgrazia, uno lo vede sempre solo, e quindi quella scena là ci ha un po' colpito, perché noi abbiamo visto che praticamente la signora preparava il posto dove poi avrebbero dormito al marito, e insomma ci è rimasta molto impressa, insomma ci ha toccato molto come scena. E come mai il valzer? Beh, il valzer è come raccontare la storia di un amore che continua nonostante le avversità, in modo dolce, quindi il valzer ci è venuto spontaneo. Spontaneo, perfettamente. Quindi anche perché il valzer è un po' un dindolarsi l'un con l'altro, no? Per sì, cui un po' nostalgico. Dire anche, un po' nostalgico, se esatto. Vogliamo, visto dal punto di vista argentino, sì, parla proprio di questo, di nostalgia, di questi ricordi, e non sono visti da nessuno. Proprio da nessuno, passano per strada le altre persone che sono appunto incise nel vostro CD, nessuno si accorge, accorge di loro, perché subito hanno solo il proprio pensiero, il proprio obiettivo, e quindi di fronte a noi ci sono tante cose che si vedono ma non si guardano. Assolutamente, loro invece vedono un altro personaggio, che è quello della prossima canzone, ovvero una sposa, ed è tramite questa visione che loro si ricordano del loro matrimonio, e quindi quel remember che continua nella canzone appunto di Emily Albert. Benissimo, allora visto che abbiamo nominato anche la sposa, salutiamo Sara e le chiediamo di farci ascoltare la sua storia. Sara, The Bride, a Blu Radio Veneto all'interno di Blu Time Live, i Soul Revolution con questo loro ultimo lavoro che si intitola People, eccoli qua. This woman is my lover and my friend. When I didn't feel at home, he was there to give me hope. Even the future is unknown, I go running cause I know I'll be there, you see, cause I want you in my life till the moment we meet. Oh, I wanna be your wife. Wait to me, my dear, cause my heart is jumping wild with my feet till I get there to the aisle. Ba-da-da-ba, ba-da-da-ba-ba-ba-da, ba-da-da-ba-ba-da. this to myself, I wouldn't be this way. I will live my love dream all my life. I'll be there, you see, 'cause I want you in my life till the moment we meet. Oh, I wanna be your wife. Wait for me, my dear, 'cause my heart is jumping wild, rushing with my feet till I get there to the aisle. Ba-da-ba-ba. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Abbiamo incontrato anche Sara the Bride, quindi Sara la sposa, qui su People di Soul Revolution. Allora, la sposa che sembra voler fare le prove di quello che sarà il suo matrimonio, una giornata che ha tanto atteso e che finalmente arriva, però forse non sta vivendo quella giusta emozione che la spinge fino dentro. Ma in realtà noi l'abbiamo immaginata piena di aspettative, ovviamente non si sa mai quello che ci riserva la vita, però quello che ci piaceva immaginare era proprio un sentimento puro, cioè una persona che non pensa a domani, non pensa a ieri, pensa al momento. E siamo anche molto fieri di dire che è stato proprio il nostro primo videoclip, quello di Sara, quindi abbiamo girato anche un video che si trova sul nostro sito, e se mi è possibile dirlo, www.soulrevolution.it. E insomma, siamo molto affezionati a questa canzone, anche perché all'epoca io e Fabrizio l'abbiamo scritta così, tanto per raccontare appunto un'emozione in più, e poi qualche... diciamo un annetto dopo ci siamo sposati io e lui, quindi è stata un po' premonitrice della nostra storia. Ma tra altre cose, il video che sono andato a vedermi, quindi invitiamo anche gli ascoltatori, ricordiamo ancora www.soulrevolution.it, soulrevolution.it, scusate la pronuncia, c'è proprio questo video in centro del vostro sito e narra appunto la storia di questa sposa, esatto, che però dopo alla fine va via, scappa. In certo ma senso. Lei sembra nel video scappare. Il senso che volevamo dare era non far capire fino all'ultimo se stesse scappando da qualcuno, se stesse correndo verso un posto o stesse scappando da se stessa. Può darsi, questa libera interpretazione. Poi insomma abbiamo immaginato che arrivasse davanti alla chiesa, al portone della chiesa, tirando un sospiro di sollievo, quindi l'abbiamo vista positivamente. Altre cose, non si vede lo sposo in questo disco, sì. Cioè viene solo nominato, solo non solamente da Sara, ma anche da un'altra persona che scopriremo verso la fine chi essere, e come mai non avete l'husband oppure il groom, come si chiama in inglese, non l'avete? Ma chissà, forse parleremo di lui nei prossimi album, però al momento ci piaceva l'idea di rendere lei l'unica protagonista, il dovrete suo piccolo fare un mondo. Disco solo per lui. A questo punto, dal punto di vista musicale, è molto gioioso questo pezzo, molto accattivante. È un singolo, è uscito proprio durante la primavera, e quindi ed è proprio primaverile, esatto, al 100%, quindi dava... costruito musicalmente per quel motivo, doveva essere così, è stato perfetto per quel periodo. Da vivo con 6 persone come si suona questo pezzo? Ma benissimo, anche perché c'è un bellissimo coro di Lorenza, poi ovviamente anche la seconda chitarra che dà quel groove in più, quindi è ovvio che noi spesso e volentieri ci appunto presentiamo in formazioni diverse, 2 acustico, 4 oppure 6, poi ovviamente l'esperienza più bella è quando siamo tutti insieme, perché abbiamo anche ovviamente una nostra chimica, certo, tra ognuno di noi, dà il proprio modo di fare, di presentare, di dare praticamente sul palcoscenico. Esatto. Bene, ancora un pezzo dal disco dei Soul Revolution People, questa volta un'altra persona. Vogliamo fare un brevissimo cappello a Jane, che è la madre della sposa. Esatto. E noi dicevamo prima che i nostri personaggi, ognuno ha qualcosa che manca all'altro, e mentre Sara si sta per sposare per amore, la madre vede negli occhi della figlia qualcosa che lei personalmente non ha mai sperimentato, perché si è sposata per soldi e quindi si è ritrovata con una bellissima casa, però povera di sentimenti, e dopo un divorzio appunto si è ritrovata nuovamente da sola. Quindi lei è un po' l'antagonista sia di Emily Albert, che non hanno niente dal punto di vista materiale, però hanno tanto amore. Lei ha tutto quello che una donna può desiderare: macchine, soldi, perle, qualunque cosa, però manca qualcosa di fondamentale. Poi mancano le perle di saggezza. Ai posteri la tua decisione di cosa sia meglio. Benissimo, allora ci ascoltiamo questa Jane, Soul Revolution, dall'album People. Radio Veneto. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. E in queste notti volevamo girare per lo studio con tanto di rosa tra le labbra, perché c'era proprio un'intensità di musica, un tango che si è sentito con una canzone, e fa un po' di, come dire, stranezza ascoltare un'atmosfera argentina, diciamo così, cantata in inglese, dove pensi tanti te quiero, te amo, te adoro, invece ci sono espressioni inglese. Sì, ma è proprio quello il senso. Con la musica acustica siamo stati in grado un pochino di fare quello che volevamo. Sì, anche perché assolutamente di acustico stiamo parlando, quasi come quello che stiamo ascoltando anche tramite i vostri strumenti che vi siete portati appresso per questa serata live con Blu Radio Veneto. Salutiamo anche tutti gli amici che ci seguono via streaming audio, e salutiamo anche chi è con noi su Facebook alla pagina Blu Radio Veneto Rock Wave, dove ci sono anche alcuni commenti riservati ai Soul Revolution. Benissimo, sembra che si piaccia. Che bello, grazie. Bravi, sì. Il discorso della scelta della musica acustica, assolutamente acustica, è una scelta coraggiosa, perché non è semplice, non è facile. Una band di solito usa le chitarre elettriche, certo. Usa la batteria, usa accentuare il ritmo. Perché questa scelta? Al di là dei testi, della storia, musicalmente, perché la scelta acustica? Era un periodo in cui andava moltissimo l'elettronica, quindi fondamentalmente l'idea era di fare una cosa controcorrente, che poi ovviamente noi non inventiamo nulla di nuovo, però era cercare di ritornare a qualche cosa che nell'ultimo periodo non ascoltavamo molto. Dimmi. Di semplicità, di strumenti suonati in modo crudo. Non effettati. Non più... che le chitarre elettriche siano, anzi, però dare un sapore diverso, ecco, forse questo un po'. E quindi la storia, poi le storie si sono accompagnate con questa strumentazione, con questo quadro, questa cornice, possiamo dire, musicale. Sì, assolutamente. Allora, sappiamo che voi state portando in giro in quest'album People Soul Revolution, ma che avete anche in pentola, nella vostra bella pentolona, un qualcosa che sta bollendo e del quale vorrete darci anche un'anticipazione, spero. Assolutamente questa sera. Sì, noi stiamo scrivendo un secondo album dal titolo Time, ovvero il tempo, perché parleremo sempre un concept album, perché purtroppo siamo un po' fissati, però parleremo della storia di una unica persona durante l'arco di un'intera giornata. E mio marito qui mi dice: no, non lo anticipare, però invece assolutamente sì, parliamo di un momento particolare della vita di questa ragazza, e attraverso un brano che si chiama 3:13 p.m. Mean to Me, ovvero le 3:13 del pomeriggio cattivo con me, ovvero la storia di tutte le ingiustizie che una persona può ricevere nella sua vita e di come a volte ci sentiamo i deboli, no? Le vittime, ma poi fortunatamente la vita ci fa scoprire nel futuro qualcosa di ancora di migliore, diciamo, rispetto a quello che ci siamo lasciati alle spalle. E quindi è una canzone un po' amara, ma anche un po' di lotta. Allora ci ascoltiamo questo pezzo, questo inedito che i Soul Revolution ci fanno qui dal vivo, ce lo regalano. Eccoli qua, Soul Revolution. Just look at me, no time to feel the blues. I waited oh so patiently, but nothing gets through to you. I hope I'll never hear from you, but the phone still rings, I can't get through. The message clear, but oh my dear, it's not so clear to you. Never ever met someone who could use people like this. I do admit I did believe that we could be real. real good friends, but selfish coward down like you, I never thought this could be true. So let me tell you once again, I put in here an end. Questa si chiama una canzone in frac, si può dire così, abbiamo vero. Sentito un grande swing, ci ha riportato indietro di qualche anno, forse gli anni 50. Dove anche prima secondo me, leggermente prima, da canzone da club, Flavio, assolutamente. Assolutamente, quasi ragtime. Esatto, quasi ragtime. Effettivamente. Diciamo così, per presentare quindi questo singolo estratto dal vostro prossimo lavoro che si intitolerà Time. E che uscirà quando? Fabrizio. Allora, pensiamo di far uscire appunto il singolo abbinato anche a un videoclip che già abbiamo girato e stiamo montando in questi giorni, a metà aprile, verso insomma metà a fine aprile, ecco. Poi il giorno esatto, insomma, ancora è da decidere. Vabbè, quindi ci prenoteremo anche per riuscire a riavervi ospiti qui all'interno dei nostri studi proprio per presentare quel Time. Ma torniamo a parlare di People. Prima non abbiamo concluso il discorso su quella che era la vostra presentazione live teatrale di questo vostro lavoro, quindi con la partecipazione anche di voci narranti e anche di protagonisti sul palco che non sono musicisti ma sono dei figuranti che sì. Vi aiutano nella descrizione di questo vostro progetto. Sì, abbiamo pensato a due formule diverse per il nostro live. Uno ovviamente il classico, quello che si ascolta nei concerti, quindi i nostri brani ascoltati un po' spiegati anche, e invece quello teatrale che voglio far raccontare da Fabrizio perché è un suo figlio, un suo progetto. Eccoci, grazie. Allora, sì, praticamente cerchiamo di spiegare, ovviamente, in Italia, di raccontare meglio che spiegare. Sì, c'è okay. Nocciolina che ci avverte, si sta... ci avverte che c'è qualcuno alla porta. Sì, perché sta arrivando Alberto Prisco, ne approfittiamo per salutarlo, ecco. Il nostro direttore artistico. Perfetto. Che poi trasmetterà dopo di noi all'interno di Rock Wave su Blu Radio Veneto, quindi una grande accoglienza. Quindi come esattamente, voleva dargli il benvenuto anche, sì. Anche Nocciolina. Quindi tornando al discorso del teatro, rappresentiamo appunto uno dei personaggi del nostro disco e appunto facendo in modo che ci sia una spiegazione del brano, quindi una narrazione del brano che introduce il personaggio e di conseguenza anche e poi ovviamente noi anche in sala diamo comunque sia le traduzioni dei testi per poter aiutare anche nella comprensione dei testi e niente, quindi questo è un po' il nostro spettacolo. Non vi diciamo di più perché magari se c'è qualcuno all'ascolto che vuole, sì. Vuole insomma presentarlo presso i propri teatri eccetera, siamo disponibili a parlarne ovviamente. Benissimo, quindi mettetevi in contatto con il Soul Revolution, il loro sito internet, lo ricordiamo ancora una volta Deborah? Sì, www.soulrevolution.it. Bene, così vedete ancora meglio rispetto alla nostra trasmissione di cos'è People, poi ancora avete la possibilità di ascoltare diciamo qualcosa del CD e naturalmente anche c'è il link per acquistarlo. E poi una bellissima notizia che c'è sulla destra, riferimento a questa serata con Blu Radio Veneto. Grazie per averci fatto un po' di pubblicità. Grazie a voi. Allora, ancora live dai microfoni di Blu Radio Veneto perché... c'è un'altra figura che prende piede all'interno di questa strada di The People con il Soul Revolution. Stiamo parlando di Jamal. Sì, la storia di un immigrato clandestino che abbandona la sua terra per cercare fortuna, soprattutto con un desiderio di ritornare un giorno dai propri cari e di portarli via con sé verso una nuova vita più fortunata. Benissimo, ce l'ascoltiamo, è Soul Revolution, Blu Radio Veneto. fortune abroad. He has seen it all the pain and hunger back home where he was born, where he found love so far away. Every day in this foreign country, he thinks of her. Soul Revolution, dal vivo ci siamo ascoltati questa Jamal con una voce molto black, molto profonda da parte di Deborah DB, ricordiamo, dei Soul Revolution. Questa storia di Jamal, l'immigrato clandestino che di notte prega e grida in silenzio perché vuole ritrovare quell'energia per tornare anche a casa, e quella è la speranza di sempre. E sentiamo che si sta sostituendo agli applausi anche la cagnolina, la vostra mascotte. Che è una grande cagnolina da guardia, purtroppo, sì, quando avete persone che non conosce, abbaia. Sì. E diciamo che comunque è abbaiato solamente con Alberto, in questo caso vuol dire che non è l'Alberto originale, deve essere un Alberto camuffato. In questo caso, mentre io che sono Flavio e Maurizio ci ha riconosciuto subito. Sì, non ha subito. Fatto nessun problema. Forse ci aveva visti su Facebook, ha chiesto l'amicizia forse prima. Benissimo. Allora, comunque volevo dire, questo brano per noi è molto caro, perché è stato forse il primo brano che ci ha portato un po' anche all'attenzione nazionale, perché tramite questo brano siamo stati invitati su Rai 2 a un programma, non so se lo posso dire, insomma, certo, London Live. Dopodiché ovviamente abbiamo ottenuto anche l'attenzione di altre radio e magari anche la vostra attenzione tramite anche questo brano. E niente, anche Noccioline è d'accordo su quello questo, che dico. La dimensione di questo pezzo si allontana decisamente in senso positivo, sì, dagli altri pezzi, perché c'è, sì, la colorazione blues. Io... assolutamente blues. Tu hai citato, io ho letto, sì, le interviste, hai parlato di Alicia Keys, sì, come un tuo punto di riferimento, ma sì, io proporrei verso Janis Joplin più che Alicia Keys in questo, ma secondo... Io sono cresciuta tra virgolette con l'R&B contemporaneo, ma anche quello più classico, quindi in realtà ho ascoltato un po' di tutto, da Etta James arrivando fino, non so, a Lauryn Hill, e diciamo che il mio genere preferito appunto include queste voci molto calde, quindi sicuramente c'è molta passione, almeno dal mio punto di vista, per queste voci, e forse inconsciamente le cito anche io vocalmente. Certo. Le citi bene, chiaramente. Sì. Senti, Deborah, abbiamo sentito parlare a te, abbiamo sentito parlare Fabrizio, abbiamo sentito anche Nocciolina. Sì. Non abbiamo mai sentito parlare Silvano, infatti, e Daniele. Infatti. Tanto per chiedere anche un po' a loro, che sono comunque i protagonisti di Soul Revolution, quelle che sono le loro inclinazioni musicali. Si diceva in partenza, abbiamo fatto un disco multimusica, sì, perché ognuno viene da una propria estrazione musicale. Assolutamente. E quindi vorremmo capire che estrazione musicale c'è da parte anche di Silvano e di Daniele. So che magari Daniele col cajon adesso si potrà esprimere solo in parte, magari con la batteria davanti potrebbe dare chissà quali trionfi riffi di percussioni, e lo stesso anche Silvano, che con il suo basso acustico avesse un elettrico per mano, no? Magari ogni tanto ci pensi? Sì, beh. Io effettivamente non è che vengo proprio da... Intanto vabbè, buonasera a tutti, prima di tutto. No, io non vengo, diciamo, da una... da gusti musicali un po' soft, diciamo mi accosto al blues perché ho suonato in una formazione blues, però diciamo che sono affezionato a quello che è il grunge o l'hard rock. Ma non ti vedo metallaro, assolutamente. No, perché ovviamente con il basso acustico non è che si può fare molto, però diciamo l'attitudine è quella di suonare con... con energia. Di energia, sì, forse quindi... ho capito. Maurizio faceva... però la sfida mi piace. Sì, Maurizio faceva riferimento assolutamente ai capelli lunghi. Esatto. Sì, classico del metal. Purtroppo è un controsenso. Diciamo. Lasciati oggi a Roma, di solito. Ecco. Sì, sì, per il metal detector famoso. Insomma, è qualcosa che ormai da tempo ho abbandonato. Un sogno nel cassetto. Certo. E invece, Daniele. Io preferisco più il caon che la batteria. Sono percussionista, quindi. Preferisco più l'elemento acustico, il legno vero, insomma. Il legno è il suo suono puro, diciamo. Suono caloroso. Ma hai suonato in qualche altra band anche te? Sì, ho diverse situazioni. Ancora adesso, chiaramente. Sì, ancora adesso. Sempre da percussionista. Sempre da percussionista. Sì, tutti si immaginano un cajon, quindi un cassone, diciamo, di quelli quasi della frutta. In realtà quello che ti abbiamo visto montare, Daniele, è proprio un cajon super professionale. L'ho modificato un po', diciamo. Quindi, però sì, inizialmente era una cassetta della frutta. Benissimo, allora torniamo a parlare ancora di musica, anzi a far parlare i protagonisti di questa specie di Spoon River, diciamo, musicale, dove invece degli epitafi delle varie persone che ci sono state, ci sono appunto dei racconti di persone che ci sono ancora, e come si confermava prima, molti di essi esistono ancora, se non come nome, come stato di fatto. Sì. Allora adesso tocca a un qualcuno che nessuno vorrebbe mai conoscere, se non nella sua parte professionale, però ogni tanto succede che colpisce. Ahimè, sì. Sì. Stiamo parlando di Nick, perché non vorremmo mai incontrarlo per la nostra strada o per la nostra casa? È un ladro. Benissimo, ascoltiamocelo. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Could it be the wind? Could it be a cat? Could it be the fire? Someone's in. He was the boy he needed money to be the villa for his honey. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. L'abbiamo presentato bene prima, Nick, in questo bel quadro che poi è stato anche ridato nella canzone, perché si dice ma forse è il vento, forse no, so, potrebbe essere il gatto che è entrato dalla finestra, no, insomma qualcuno è entrato, però non era né gatto né vento, era proprio Nick, il ladro che entra furtivamente nella vita di tutti, ed in particolare in quella che è la casa che sarà dei futuri sposi. Esatto. Per andare là, non fare i scherzetti classici dopo il, diciamo, la cerimonia, ma per andare a rubare le perle, i gioielli. Esatto. E fare un po' il Robin Hood, come lo ricordavi nella canzone, Deborah, però non il Robin Hood che prende ai ricchi per dare ai poveri, ma prende ai ricchi o alle persone benestanti o meno benestanti per darlo a se stessi. Assolutamente, era un modo un po' scherzoso, perché noi abbiamo immaginato comunque Nick come una figura quasi divertente, goliardica, quindi... Sì, è un po' come i politici fondamentalmente. Ho capito, benissimo, quindi... E anche, anche musicalmente era piuttosto un pezzo che si rincorreva un momento dopo un momento, divertente, una specie di canzoncina nel senso positivo del termine. No, assolutamente, voleva essere più scherzosa possibile, quindi è sicuramente una canzone semplice, ma proprio per quello noi l'abbiamo resa così divertente. E tra l'altro la chitarra iniziale serviva proprio a far immaginare questa camminata furtiva, questo questa velocità, sembrava quasi un'entrata nella casa e un come dire, muoversi a tempo e a ritmo nell'aprire i cassetti, nell'aprire gli armadi, e quindi far sentire il suono e l'eco di questo suono dei cassetti che si aprono, che si chiudono. Sì, poi viene dopo Jamal, quindi era anche una scelta proprio di rendere un attimo il momento disimpegnato, perché seguiva uno molto più struggente, che era quello del blues. Quindi assolutamente sì, una canzonetta nel senso più bello del termine, cioè qualcosa di divertente, uno stacco. Di scacciapensieri per quel momento, uno anche se poi pensieri ce ne sono, visto che è un ladro, quindi sì. Non li scaccia a se stessi, perlomeno penso sia, e poi, anzi spero, una cosa momentanea che dopo venga preso. E poi giustamente la canzone dice non è mai andato bene a scuola, poverino, lavorare era così faticoso, e d'altronde come poteva pagarla la villa, la fidanzata? D'altronde. Certo, si fa così. Allora, questo People ha portato ai Soul Revolution delle recensioni molto molto positive, e soprattutto anche alcuni giornali quali il Messaggero e La Repubblica, solo per citare due titoli famosi di testate giornalistiche, hanno parlato molto bene di voi e della vostra esperienza musicale con People. Sì, per noi è il massimo, quando comunque sia il pubblico che i critici, o almeno comunque le persone addette al settore, parlano bene del tuo lavoro, effettivamente questa cosa ti dà una grande carica e la voglia di continuare, quindi è stato fantastico. Anche perché sono state recensioni assolutamente fatte da critici che paludati che lo fanno di mestiere e di passione, e per cui uno poi ci crede, no? Certo. Poi vuol dire, sono giornali di Roma, è già positivo anche questo, essendo Messaggero, soprattutto il Messaggero più di Repubblica. Certo. Messaggero dà un certo input anche a voi per suonare anche a Roma, perché no? È importante anche questo. Assolutamente, assolutamente. Noi, prima Fabrizio parlava della difficoltà di essere ascoltati, esatto, come gruppo. Purtroppo quello che forse manca è la legittimizzazione, si dice legittimità, sì, della, mi sembra sia giusto così, esatto, che viene dato al gruppo. Quindi indubbiamente ritrovarci su testate giornalistiche così importanti ci dà la possibilità di arrivare più in fretta nelle case e degli altri, anche nei locali degli altri. Ma è un'altra, certo, cosa, è un'altra cosa positiva, sì. L'essere acustico è, sì, ancora più difficile. Certo, e certo. Poi vuole essere anche una sfida musicale, una scelta del nuovo, dell'inesplorato, seppur già esplorato. Certo. Benissimo, allora Soul Revolution con noi, ancora un paio di canzoni prima di lasciarci. Allora, c'è una persona che si affaccia nella vita dello sposo, c'è una Rose. Sì, oddio, non ha a che fare con lo sposo, perché non vogliamo creare problemi alla povera Sara. Sì. È più che altro una donna che vede un altro uomo, un uomo per strada donare una rosa alla propria amata. E ascoltando questo brano scopriamo che in realtà è il suo ex fidanzato, quindi lei avrebbe voluto, la nostra protagonista, ricevere la rosa al posto di quest'altra fanciulla, chiamiamola così. E per noi, o almeno io parlo per me, una delle mie canzoni preferite dell'album, perché è quella un po' malinconica, un po' struggente, e quindi insomma tocca quelle corde che ci piacciono tanto. Benissimo, allora ce l'ascoltiamo qui in diretta all'interno di Blue Time Live su Blue Radio Veneto. Loro sono i Soul Revolution, questa è Rose. Big smile in your eyes with a rose. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. E abbiamo ascoltato anche questa Rose, The Last Love, questo amore perduto, dove appunto Rose, di Rose si racconta la storia del suo amore perduto per l'appunto, e non a caso lei si chiama Rose in contrapposizione anche a quella che compare alla fine, che è la Red Rose, questa grande rosa d'amore che lei non potrà mai avere. Esattamente, è un po' un gioco del destino, il nome della ragazza e l'oggetto che vorrebbe ricevere. Rose è sempre nella tipologia folk inglese, spesso e volentieri gli amori perduti. Rose è un nome che spesso si cita. Sì. Questo non è un pezzo folk, però potrebbe avere l'inizio del folk, poi è diventata una ballata pop, secondo me. Sì, è diventata più una ballata probabilmente, però ci piace proprio, è forse quella che ha un andamento più complesso in generale. Ha diverse colorazioni praticamente. Sì, esatto, ha diversi colori, diversi momenti. Ci piace. Anche siamo a noi. Siamo un po' perdonateci. Come si dice, ognuno è bella mamma sua, una cosa del genere. Certo. Allora, abbiamo ascoltato diverse canzoni, diversi stili musicali si sono avvicendati in questa serata per dare una buona descrizione di quelle che sono i personaggi che compaiono all'interno di People, questo lavoro di Soul Revolution. Vogliamo ricordare ancora una volta, esiste un sito internet per avere maggiori informazioni riguardanti il vostro disco e anche su come fare per entrare in possesso in maniera legale. Assolutamente. Noi siamo sia sui vari ovviamente portali musicali, iTunes, Nokia Music Store, Omnia, insomma ci trovate ovviamente se volete scaricarci legalmente, come è stato detto, oppure abbiamo il nostro CD che è in vendita al momento in vari negozi in Lazio, Umbria, Toscana, però c'è anche la possibilità di richiederlo direttamente tramite la nostra email e viene ovviamente inviata, perché c'è anche l'acquisto tramite PayPal, che è un metodo ormai molto sicuro e tranquillo per acquistare. Benissimo, tra altre cose anche all'interno del sito internet, ricordiamo soulrevolution.it, c'è anche la possibilità di andarsi a vedere i testi, sia nella versione inglese, quindi per seguire le canzoni, sia la traduzione italiana per comprenderne meglio il significato. Sì, cerchiamo di essere molto esaustivi con il nostro sito, troverete tutto, anche la possibilità di iscriversi a una newsletter e ricevere, diciamo, le date dei nostri prossimi concerti. Una cosa che non avevo detto in principio, voi col vostro CD sostenete anche una cosa molto importante. Sì, sosteniamo un'associazione che si chiama Zero Violenza Donne e quindi sosteniamo, diciamo, la causa di questa associazione, che è evidente dal titolo, a tutela appunto delle donne contro ogni tipo di violenza di genere, ovviamente. Quindi oserei dire 10 motivi in più per acquistare anche il CD di Soul Revolution. Assolutamente. Guardarci dentro, non solamente al CD, ma anche a questo Zero Violenza Donne. Donne, che dovrebbe essere anche un sito internet dove si può cliccare direttamente sulla nostra home page al logo di Zero Violenza Donne per poi essere ovviamente catapultati direttamente sul loro sito, quindi informarsi sul loro operato. Benissimo, allora adesso noi ci ascoltiamo un'altra canzone, però prima ci dobbiamo salutare, come sempre il tempo, come diceva Attila, è tiranno. È tiranno. Ecco, allora però presentiamo l'ultima canzone, ovvero la traccia numero 9 di The People, con una protagonista che si chiama Carmen, che a mio avviso doveva esserci prima. In realtà l'avete messa per ultima per descrivere? Ma assolutamente, lei è molto tattica per noi, anzi, perché lei chiude proprio tutto il cerchio. Noi pensiamo, ascoltando l'album, che il primo personaggio, Simone, sia quello introduttivo, che vede tutti i personaggi, l'unica persona, insomma, al corrente di tutto ciò che vive intorno a lei. In realtà c'è Carmen, dalla sua stanza guarda dalla finestra tutti i personaggi della strada e quindi li richiude, cioè li chiude un cerchio che noi abbiamo voluto aprire appunto con Simone, e dipinge su tela e quindi con i colori tutte le persone che invece noi abbiamo descritto tramite musica. Certo. E lei è il nostro espediente anche a teatro, perché spesso e volentieri un'attrice si veste dei panni di Carmen per aiutarci a narrare questa storia e questo album. Quindi Carmen, questa artista che dà colore a questi, sì, quadri di queste persone che sono davanti a lei in questa finestra che dà verso questa strada, esatto, dove si svolge il tema di People, e quindi lei fotografa queste, sì, queste emozioni in continua evoluzione, questa tela che non finisce mai, esatto, di essere tessuta. Assolutamente sì, infatti lei è la bohemienne per eccellenza, una donna libera, e la canzone speriamo che vi dia l'idea proprio di questa libertà, di questa gioia di vivere. In effetti verso la fine della canzone, anzi al finale della canzone, sentirete proprio di libertà e amore, di libertà e amore, di libertà e di amore. Libertà e amore. Ecco qua. Allora, Soul Revolution, li ringraziamo di esserci venuti a trovare. È stato un grande onore per noi ospitarvi all'interno della nostra programmazione serale di Blu Radio Veneto, quindi un grazie davvero per essere venuti. Grazie tantissimo anche a voi, infatti vorrei farvi salutare un secondo da tutti gli altri. Grazie a tutti, grazie a voi, e un saluto a tutti gli amici di Blu Radio Veneto. Grazie Fabrizio. Ciao, buona serata. Grazie anche Silvano. Ciao, grazie. Grazie anche a e Daniele. E poi c'è anche ovviamente Nocciolina. Sì, che c'è Nocciolina che già ha avuto modo di esprimerci le sue... Di esprimere le sue capacità. Sì, le sue capacità vocali, musicali, e quindi... È perché non abbiamo un can-can da far ascoltare. Sì. Altrimenti potrebbe andare bene. Ok, allora ancora buon rientro nella vostra amatissima Roma. Quindi Soul Revolution, ricordate carissimi ascoltatori, per saperne di più ancora una volta www.soulrevolution.it, e ricordiamo questo lavoro che si intitola People, mentre aspettiamo il prossimo e sarete ancora nostri graditissimi ospiti. Ancora buona serata, quindi Blu Time Live può finire qui da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Il solito grande e caloroso ciao, e a risentirci a presto. Grazie, ciao, a voi, ciao, grazie, grazie mille, ciao. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, Rock Wave, l'onda del rock.